Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. www.archeologiavideoludica.net, www.italianpodcastnetwork.it, www.allgamesitalia.net e andreamilana.com. Questi sono i riferimenti fondamentali della nostra trasmissione che sta per iniziare. Archeologia videoludica ovviamente è anche su Facebook e Google per quanto riguarda la parte social, e videoludica ci trovate anche su Twitter, quindi twitter.com/videoludica, archeologiavideoludica@gmail.com è la nostra posta elettronica dove potete contattarci per dire quello che assolutamente volete. Tra l'altro dovrei fare un inciso verso fine trasmissione proprio in merito a questo, perché ricevemmo tempo fa una mail alla quale non abbiamo più dato seguito, ma purtroppo una trasmissione seria e impegnata come la nostra può anche succedere. Questa puntata è lo speciale, il terzo speciale che Archeologia Videoludica fa nella sua carriera, nella sua programmazione. Ovviamente ci saranno dei distinguo, dopo li spieghiamo. Chi è con me a fare questo speciale? Ovviamente Roberto Sam Bertoni, detto anche Marcus Brody. Ciao Roberto. Ciao a tutti ragazzi, una bellissima domenica di metà primavera, il sole è alto nel cielo, sono circa le 21:49 di sera ed è un piacere passare questa serata con voi. Su che pianeta stai però? E vabbè, ognuno fa quello che può, nel senso, quando ci sei tu, il sole è sempre alto. Grande, grande, sì, sì. Anch'io ti voglio bene così tanto. Comunque notate per la prima volta, dopo 3 mesi dall'investimento, che Roberto ha un audio, insomma, all'altezza di questa trasmissione. Prima era all'altezza solo come caratura, chiaramente, personale. Adesso è anche all'altezza come audio. Quindi, insomma, ci fa molto piacere. Che cosa hai risolto? Hai spostato qualche filo? Ho spinto qualche pulsante? Da dopo, cazzo, al microfono, cosa è successo? No, direi che è un fantastico insieme di casualità che mi hanno permesso di azzeccare per questa registrazione la voce. Non assicuro niente per le prossime volte, anzi. Bene. Allora Roberto, dicevamo, fino adesso noi abbiamo fatto 2 extra, sì, però abbiamo fatto una sorta di riflessione interna al nostro staff, chiaramente, pensando, abbiamo detto insomma che probabilmente gli extra possono dare l'impressione di essere qualcosa di eccessivamente distaccato, quasi uno spin-off. In realtà questi extra diventeranno da oggi in poi degli speciali, ossia sono delle puntate che sicuramente esulano dal corso tradizionale della nostra trasmissione, ma che in realtà, parlando sempre e anzi andando ad approfondire magari temi specifici, più invece che chiamarli extra li chiamiamo speciali. Io penso che sia azzeccato, no? Tu che dici? Se no poi si crea confusione, ci hanno scritto anche dicendo ma l'extra che cos'è? Capito? Extra rispetto a cosa? Extra rispetto a chi? Cioè, nel senso, non si capisce bene il perché e il per come. Diciamo che sostanzialmente è per permettermi di dare più spazio a una voce importante come la mia, e quindi giustamente aumentare il livello tecnico di questa trasmissione, che ha subito un contraccolpo dall'ultimo dibattito consolistico. C'è stato un momento di pausa. No, a parte gli scherzi ragazzi, appunto, non niente di particolare, però volevamo dare un taglio più trasversale magari quello che è la cronologia che affrontiamo nelle puntate ordinarie, tutto qua. Cioè, invece di affrontare un discorso dal punto di vista proprio strettamente cronologico, storico e anche nozionistico, diciamo che qui negli speciali andiamo a fare degli approfondimenti. Poi gli speciali possono essere veramente di qualsiasi tipo, così come anche ecco, come quello precedente, l'extra che c'è stato quando siamo andati ovviamente a Game Zero o ancora precedentemente a Retro Commodore. Quindi gli speciali possono essere fondamentalmente di qualsiasi tipo, e ecco, le prime 2 volte eravamo io e Marco il Distruggitore, oggi siamo io e Roberto. la prossima volta potrebbe essere Roberto e Marco, insomma, a secondo di chi si occuperà ovviamente di redigere, senti qua che, esatto, che importa, di chi si occuperà di redigere il documento, ovviamente poi dopo la trasmissione verrà condotta di conseguenza. Ringraziamo sempre ovviamente Andrea Milana, che tra l'altro mi ha bacchettato perché l'altra volta nel finale non l'ho salutato, o all'inizio non ricordo, comunque ringraziamo a metà. Ringraziamo Andrea Milana per il suo grande contributo, ricordiamo insomma l'importanza del suo apporto, che ha dato maggiore qualità tecnica alla nostra trasmissione, anche se, come abbiamo già detto nell'extra precedente, negli speciali ovviamente non sarà lui che si occuperà dell'editing e della parte strettamente tecnica. Ok Roberto, diciamo, prima di andare avanti, di entrare nel succo della trasmissione, che ci abbiamo? Qualche news per quanto riguarda il Games Italia? Sì, diciamo che le news, come sempre, chi visita il nostro sito può vedere, sono giornaliere, quando riusciamo anche bigiornaliere. Però questa volta mi preme sottolineare due notizie abbastanza importanti. La prima è il nostro museo, che sta diventando sempre più grande, sempre più approfondito, e a questo giro propone anche la scheda quasi completa del primo Monkey Island. È un qualcosa di veramente interessante, troverete diverse informazioni, e per chiunque è un collezionista comunque la possibilità di poter entrare dentro quella che è stata la distribuzione dei giochi in Italia. L'altro aspetto invece è un gioco rilasciato recentemente, Legend of Grimrock, che al di là della qualità sicuramente molto alta del gioco, è un po' un caso particolare, in quanto riporta un genere che si pensava ormai perso, quello dei giochi di ruolo, i dungeon crawler, per andare una definizione più tecnica, che erano anni non si vedevano, sono i giochi di ruolo bidimensionali, molto tecnici, molto difficili, quelli dove una volta si disegnavano le mappe con la carta e con la penna, ecco, tipo Ace of the Beholder, grandissimo, grandissimo, ecco, diciamo che è un po' un figlioccio del genere, e vederlo riproposto qua nel 2012 e vedere un successo del genere ci fa pensare che forse, e ripeto forse, non tutto lo game è perduto. Beh sì, diciamo che forse gli sviluppatori indipendenti, ovviamente non potendo magari anche competere con i titoli AAA, cercheranno ovviamente magari di riproporre, ovviamente in salse molto più aggiornate, quelli che sono magari vecchi stampi, vecchie tipologie di gioco. Tra l'altro non so se ne abbiamo parlato recentemente, ma c'era anche il fatto dell'Enhanced Edition di Baldur's Gate, del Baldur's Gate, sì, quindi anche quella, insomma, c'è un po' un ritorno, lo stesso Dragon Age Origins poi un po' li ha riportati, li ha ringalluzziti un po' tutti, il primo, il secondo lasciamo perdere, insomma. Seconda come Mass Effect 3, però lasciamo perdere. Vabbè, ne parleremo in altre sedi. Va bene, allora io direi a questo punto di entrare direttamente in quello che tradizionalmente noi abbiamo definito il Barnett College. Eccoci qua, allora. Argomento della puntata, l'episodio, lo speciale si chiama Narrativa da giocare. Un titolo veramente pregno di significato. Di significati, che di per sé non significa niente, però speciale, due punti, avventure testuali. Quindi introduciamo un attimo, Roberto, l'argomento, no? Di che cosa parliamo? Parliamo di avventure testuali, che tra l'altro è uno dei generi a me più caro in assoluto, proprio per affezione sia al suo tempo, insomma, che anche ai giorni d'oggi, insomma. Quindi Roberto, vogliamo fare una piccola descrizioncina prima di entrare in questo speciale, che tra l'altro ci sta attendendo, sta lì che scalpita l'ospite specialone che ci hai portato questa volta. Esatto, abbiamo un ospite di quelli che da soli cambiano le sorti di ogni episodio, però aspettiamo un attimo e introduciamo appunto l'argomento. Allora, avventure testuali. Avventure testuali è un argomento molto interessante, che sono sicuro che chiunque abbia vissuto il videogioco intorno agli anni 80 non può che ricordare con un grandissimo affetto. In pratica è un genere che, come dice la stessa parola, permetteva per la prima volta di vivere un'avventura all'interno di un gioco, ma nel momento in cui quest'epoca, appunto fine anni 70, la grafica non permetteva una risoluzione, una resa così importante, Sì, devolveva in qualche modo il tutto al motore grafico più potente esistente al mondo, ovvero la nostra fantasia. Tutto infatti veniva solamente attraverso il testo, tralasciando poi quelle che saranno comunque delle evoluzioni del genere, e i comandi al nostro eroe erano dati appunto attraverso comandi testuali. Può essere il classico tira la leva, vai ad est, vai ad ovest, prendi il sasso. Chiaramente queste avventure, per poter essere vissute al meglio, richiedevano comunque uno sforzo non indifferente, sia da parte del programmatore, che comunque doveva cercare di rendere nella maniera più intuitiva possibile quello che era un possibile percorso e prevedere quelle che erano le risposte del giocatore, sia dalla parte del giocatore, che appunto doveva immaginarsi un mondo solamente attraverso le descrizioni, capire cosa poteva fare per poter intervenire e cercare di risolvere quello che erano le avventure. Il primo esponente, giusto per dare qualche notizia storica, nostra trasmissione d'altronde è Archeologia Videoludica, ci racconta che nel 1975 un tale Will Crowther, spero di pronunciarlo in maniera abbastanza decente, scrisse la prima avventura testuale, con molta fantasia, dal nome Adventure. Nonostante poi il nome originale fosse Advent, ma questo magari ci torneremo in un'altra trasmissione, un altro episodio. Ed era un'avventura abbastanza interessante, sia perché appunto per la prima volta permetteva di vivere un'avventura, ripeto ancora questo termine che è veramente importante, molto completa, molto complessa, con un tributo a Tolkien, con diverse influenze letterarie, sia perché sfruttò, e da qui poi internet diventò sempre più importante, l'allora ARPANET per appunto raggiungere più giocatori possibili. Dimmi, hai qualcosa da dire? Sento che... No, sì, dicevo che ovviamente precisiamo che le avventure testuali, che si sono particolarmente sviluppate negli anni Ottanta, non hanno avuto una grande risonanza in Italia per problemi proprio specifici, che forse la più grande delle nostre barriere dal punto di vista culturale è quella della lingua, perché la maggior parte dei più grandi prodotti, delle più grandi opere che sono state realizzate in questa tipologia di giochi ovviamente vengono tutti dall'estero e quindi sono quasi tutte in inglese, giusto? Sì, diciamo che possiamo fare concretamente due insiemi, due grandi visioni. La prima è quella che riguarda le avventure in inglese con grandissime case, fra cui la sempre indimenticabile Infocom, con prodotti del calibro di Zork, di A Mind Forever Voyaging, scusate l'inglese, ma purtroppo stasera sono molto sonnato. Non c'è Marco poi. C'è Marco che appunto ci manca questo eroe dell'inglese moderno. Della traduzione. Sì. Comunque dicevo appunto la Infocom, la Legend, cioè diverse case che ottengono diverso successo, molto successo in tutto il mondo, sia per le loro avventure, sia per chi se le ricorda, le confezioni con le quali vendevano queste avventure, davvero delle piccole perle. E in Italia, appunto, per concentrarci un po' sulla nostra penisola, non c'è mai stato questo grande risonanza, nonostante abbiamo avuto alcuni autori sicuramente importanti, fra cui citiamo sicuramente Enrico Colombini, autore della prima avventura testuale italiana, Avventura nel Castello. Il nostro ospite, e qua teniamo ancora un attimo di suspense per i nostri ascoltatori, e altri autori minori come ad esempio Roberto Tabacco e Hans Piu, che comunque non ottennero quella fama e quel successo che le loro controparti inglesi invece ebbero nello stesso periodo. Diciamo che nonostante poi, giusto per chiudere un attimo la panoramica, non ci fu questo gran successo a livello italiano e comunque a livello internazionale, chiaramente con l'avvento della tecnologia la diffusione di questo prodotto era destinata a scemare. Ancora oggi è possibile trovare delle avventure testuali che vengono prodotte, fra cui appunto abbiamo diversi esponenti italiani che rilasciano avventure di un certo livello, che riescono a ottenere anche delle buone posizioni nelle competizioni che vengono svolte ancora oggi, ma di questo magari parleremo più avanti anche con il nostro ospite. Sì, anche perché oggi ci sono anche degli strumenti, dei linguaggi con i quali possono essere realizzate queste avventure testuali, ma magari ecco più avanti verso la fine anche faremo degli accenni, perché magari fra un anno, quando avrò studiato bene, magari si aggiungerà un altro esponente agli sviluppatori di avventure testuali, che insomma io penso che al giorno d'oggi vengono realizzate quasi del tutto in modo amatoriale, no? Perché non credo che ci sia un mercato realmente su quello che riguarda l'avventura testuale in Italia, perlomeno penso, non so se ho detto una castroneria, Roberto? Beh, diciamo che allora, dal punto di vista commerciale, Interesse in Italia nacque e scemò nei primi anni 80, nel senso che appunto purtroppo non c'era la possibilità, sia per l'ampia diffusione dell'illegalità in quel periodo, sia per appunto un retroterra culturale che non permetteva probabilmente di apprezzare capolavori spesso, come dicevi tu, in lingua inglese. Appunto, dicevo, dal punto di vista commerciale la cosa è morta abbastanza in fretta. C'è una serie di rilasci chiaramente gratuiti, fatti per più per la fama che per la gloria monetaria, però che comunque rimangono prodotti magari interessanti e qualcuno potrebbe piacere. Diciamo che si è cercato di spingere il genere nei suoi limiti, cercando di trovare magari innovazioni, cercando di avvicinare magari al gusto del giocatore attuale, però chiaramente potete capire che rimane sempre comunque un genere, se non di nicchia, di super nicchia, se vogliamo proprio catalogarlo. Sì, anche perché poi ho visto che si sono create anche delle distinzioni, insomma, varie forme, ma comunque anche di questo ne parliamo dopo. Allora, Roberto, a questo punto io direi che posso lasciare a te l'onore, la presentazione del nostro ospite speciale, che insomma innanzitutto almeno competenza a quello di cui stiamo parlando, ma sicuramente anche un certo prestigio, un certo onore, no, da parte nostra, di avere un ospite così importante, anche grazie insomma al tuo intervento. Ok, presentiamo ora il nostro mega ospite. So che già qualcuno sta bramando, qualcuno avrà fatto le sue ipotesi. Beh, diciamo che abbiamo niente meno che l'onore di avere fra noi Bonaventura Di Bello. Adesso dovrebbe esserci un mega applauso, almeno spero ci sia un mega applauso. Per chi non lo conoscesse, cosa che dubito sinceramente, stiamo parlando di uno dei più grandi autori di avventure testuali in Italia. Diciamo, come abbiamo premesso, forse anche l'unico, tolto Colombini, che comunque ha svolto la sua parte storicamente parlando. Un famosissimo anche giornalista, sicuramente lo ricorderete sulle pagine di Zap e The Games Machine. Impegnato da sempre nell'informatica e nel mondo del computer, collabora ora con la società di Aomi per il museo del retro gaming, che aspettiamo arriverà presto. Insomma, un personaggio tutto tondo. Ha visto il videogioco nascere in Italia, lo sta vedendo evolversi, e chi meglio di lui può accompagnarci in questo viaggio nell'avventura testuale. Quindi benvenuto. Grazie. Ok, come avete sentito la sua voce potente che trasuda storia solamente a ogni sillabo che emana. Ok Simo, non picchiarmi con queste battute di basso livello, per favore. E appunto, cerchiamo un attimo di, magari aiutandoci con lui, di capire un po' chi è, da dove viene, cosa fa, partendo appunto dalla sua esperienza nel mondo delle avventure testuali. Qualche accenno magari lo do io, poi lascio chiaramente la parola a lui, che sicuramente potrà esprimersi meglio di me. Il primo gioco di cui storicamente si ha traccia di Bonaventura è un'avventura famosa, Dimensione Sconosciuta, che prende un po', diciamo, sembrerebbe le origini a Planet of Death, un'avventura testuale d'81. Ci può raccontare già qualcosa? Sì, certo. In effetti Planet of Death, o Adventure A, come la chiamavano anche in codice, è stata praticamente la prima avventura che io stesso ho giocato, nella quale mi sono imbattuto praticamente per caso, per sbaglio, vogliamo dire così, anche se io non credo né al caso né alle coincidenze, ma credo alla sincronicità, sinceramente. E me la sono ritrovata come gioco in regalo con un'espansione di memoria dello Spectrum, e quindi non sapevo nemmeno io che cosa fosse. Ho letto le istruzioni, l'ho caricata, mi sono trovato davanti a questo schermo del testo in inglese, ma è stata un'esperienza, dico soltanto che ho passato il mese successivo praticamente incollato allo schermo a cercare di risolvere questa cosa stranissima che non era un videogioco. E quello mi ha lasciato praticamente la voglia incredibile di creare qualcosa dello stesso genere. Quindi c'è stata una ricerca dal punto di vista del software, e per fortuna mi sono imbattuto in The Kill, che all'epoca era soltanto nella versione testuale, non c'era ancora la possibilità di aggiungere le immagini, che come sarebbe stato dopo con l'altro programma di Illustrator. E avendo a disposizione The Kill, ho tentato proprio di ricreare un gioco da zero, e ne è venuto fuori questa Dimensione Sconosciuta, che stranamente è nata non per essere commercializzata, ma come succede sempre in questi casi, per diventare qualcosa di gratuito, ed è stata distribuita nei canali del software pirata, nel senso che io l'ho regalata a uno spacciatore di software dell'epoca che l'ha inserita nelle sue cassette e ha circolato. Nello stesso tempo però poi è finita anche su Load and Run, perché mi sono imbattuto in questo concorso che c'era su Load and Run dove si vinceva un Sinclair QL. E c'era scritto di proporre un gioco, ho detto ma sì, me la trovo già fatta, la mando anche lì, ed è stata in questo modo ufficializzata in edicola come effettivamente la mia prima avventura ufficiale, che non esiste ancora infatti nelle altre versioni, ma solo per Spectrum, e che quindi ha avuto una diffusione più limitata rispetto a quelle che ho fatto successivamente. Ma giusto per capirci un attimo, penso che tu meglio di altri puoi testimoniare proprio l'atmosfera da pioniere che si vive in quei momenti, nel senso che erate i primi a produrre qualcosa in Italia che potesse avere comunque una risonanza, erate i primi che comunque imbattevate in un genere con le avventure testuali che probabilmente non era così conosciuto, appunto, sia per lo stacco della lingua sia per la diffusione dell'epoca dei videogiochi. Però voi, tu, Colombini e altri, avete deciso di impegnarvi e di inserirvi in questo ambiente. Se ci puoi raccontare un attimo, appunto, quali erano le tue sensazioni, come ti sentivi, se ti sentivi un esploratore in terre sconosciute? Guarda, la sensazione è legata, e credo che questo, parlo anche, penso un po' forse per Enrico Colombini, perché penso che abbia anche lui un po' del background che ho avuto io. Noi veniamo da un'esperienza soprattutto di lettura. Io in particolare divoravo fantascienza da ragazzo, sin dalle scuole elementari. Il mio primo libro di fantascienza l'ho letto alle elementari, figurati. E quindi le avventure testuali rappresentavano, in un certo senso, anche un modo per riuscire finalmente a scrivere, cioè a creare delle storie. Perché poi sai che chi legge tantissimo, la voglia che ti viene a un certo punto è quella di anche di scrivere delle storie oltre che di leggerle. E riuscire a farlo con uno strumento che era appunto questa possibilità di sviluppare delle storie, tra l'altro interattive, era un'esperienza incredibile. In più si aggiungeva il fatto che si creavano dei mondi nei quali era possibile poi coinvolgere delle persone e portarle a risolvere degli enigmi. Non era una sensazione tanto di quella che può provare il Dungeon Master, cioè di onnipotenza o del fatto di avere di intrappolare virtualmente delle persone nei propri enigmi. Era la possibilità di dare un qualche cosa al pubblico che potesse divertirlo e nello stesso tempo potesse stimolare la sua capacità di problem solving, quindi di accrescere l'intelligenza di queste persone, di stimolarle in questo senso. E ti posso dire che negli anni, addirittura mi capita ancora oggi, ci sono state persone che mi hanno scritto a distanza di decenni per ringraziarmi, perché hanno riconosciuto questo fatto di aver avuto in qualche modo un apporto positivo, costruttivo dal fatto di giocare quel tipo di giochi, che era totalmente diverso da tutto quello che avevano giocato in precedenza, dai classici videogame. Quindi c'era questo tipo di emozione dietro, che secondo me rimane ancora oggi, ed è l'atmosfera che lega un po' il mondo dell'avventura testuale, che gli permette anche di sopravvivere in un certo senso. Perfetto, poi magari appunto qualche accenno su qual è lo stato dell'arte attuale, direi di farlo. Però ho visto che hai accennato in maniera molto interessante un po' a quello che era la parte tecnica del programmare avventure. Ecco, magari se ci racconti un po' cosa usavate, quali erano i primi mezzi che erano a vostra disposizione, cosa offriva appunto il panorama in quel periodo? Sì, c'era ci sono due mondi diversi nel mondo dell'avventura. Il mondo quello di alto livello, che poteva essere il mondo di Infocom o di Adventure International, di Level 9, che erano le case di software più importanti, più famose estere, ovviamente non italiane, che si servivano di strumenti creati in-house, c'erano dei compilatori, dei parts con compilatore che avevano creato all'interno, e quindi sui quali costruivano questo canovaccio e gli permetteva poi di riprodurre di volta in volta giochi diversi, avventure diverse. Per quanto riguarda invece il mondo quasi amatoriale, perché poi in effetti ci siamo entrati così, c'era il Basic, ovviamente, che con il quale Colombini appunto ha creato il suo primo modulo per le avventure, che io ho ripreso in seguito, solo per le macchine MSX, e c'era questo The Kill, che era un software creato da un software house del Galles, e aveva di particolare la possibilità di definire tutta la struttura, quindi la descrizione dei luoghi, delle location, l'elenco dei verbi, l'elenco degli oggetti, una serie di routine che riguardavano le azioni, quindi quello che succedeva quando si faceva una determinata azione, e un elenco di situazioni che si chiamavano status, che erano, diciamo, che accadevano indipendentemente da quello che si facesse, quindi erano le routine che dipendevano dal trascorrere del tempo, quindi dal numero di mosse della persona, del protagonista, oppure dalle condizioni dell'ambiente in cui ci si trovava. Se per esempio si era al buio e si camminava senza la lanterna, senza la luce, si rischiava di rompersi il collo, oppure se si era sott'acqua e l'ossigeno era finito, perché il numero di mosse che calcolava il tempo aveva dichiarato che era finito l'ossigeno a disposizione, si moriva annegati, ovviamente. Quindi, oppure altre cose di questo tipo, non so, un qualcosa che poteva franare dopo un certo tempo, o diciamo un potere che poteva perdersi di un incantesimo dopo un tot di mosse. Quindi lo status rappresentava questo. La bellezza di The Kill era che ti permetteva di definire tutto in tabelle, quindi aveva una linearità e una pulizia di programmazione veramente unica. L'altra cosa bella era che dopo che tu avevi fatto il tuo lavoro, avevi il sorgente che potevi salvare, ma nello stesso tempo lo compilavi, quindi ti veniva fuori un'avventura, un software che era già compilato velocissimo e con appunto la velocità di risposta che, nonostante magari il numero di sinonimi con cui io amavo infarcire i miei giochi, perché era la cosa a cui tenevo moltissimo, era quella di usare il maggior numero di sinonimi possibile e soprattutto di cercare di prevedere il maggior numero di comandi possibile da parte del giocatore. Questo sempre aiutato dalla grande tempo speso nella lettura di narrativa. E quindi il The Kill era bello per questo motivo. Nel caso degli MSX, ho dovuto poi adattare il modulo di colombine, che era in Basic, aggiungendo tutto quello che mi dava il The Kill in più, quindi trasformandolo e ampliandolo, evolvendolo in modo che funzionasse e desse le stesse caratteristiche anche sul computer MSX. Si è aggiunto poi l'Illustrator, che ha integrato la grafica, che era di tipo vettoriale, quindi non pesava tantissimo perché veniva tutto disegnato direttamente in tempo reale sullo schermo. Se vogliamo, era la prima grafica vettoriale sul computer, perché all'epoca non esistevano i programmi di grafica vettoriale. Quindi creava le linee creavano delle forme e venivano riempite con delle texture particolari, e tutto questo bisognava farlo anche a monte. Quindi quando si disegnava, purtroppo non c'era la tavoletta grafica o il mouse, si disegnava tracciando queste linee, possibilmente non tutto troppo dritto, quindi creando anche un po' di curve, di movimento nel disegno, e cercando di rendere il tutto abbastanza realistico, nonostante fosse fatto di segmenti e di riempimenti, poi fondamentalmente, quindi niente di artistico, diciamo così. Hai accennato quello che secondo me sicuramente è un punto importante in quello che è la programmazione delle avventure testuali. Mi sto riferendo al parser, nel senso che appunto nella chiacchierata che facevamo un po' prima di iniziare a registrare mi raccontavi che a un certo punto c'erano fondamentalmente due strade: dedicare più spazio a quello che poteva essere appunto l'utilizzo del parser, quindi prevedere un maggior numero di comandi, oppure di contro chi programmava magari cercando di potenziare quella che era la grafica, anticipando forse quella che era una futura evoluzione ma non cogliendola appieno. Ecco, se ci puoi raccontare qualcosa al riguardo magari potrebbe essere interessante. Sì, il parser diciamo che era il punto chiave proprio delle avventure, perché era quello che permetteva di dare il realismo durante il gioco. Il fatto di dedicarsi ad ampliare il più possibile la quantità di frasi, di verbi, di combinazioni di parole, ma anche di situazioni, perché poi il parser doveva prevedere non soltanto i sinonimi di verbi e di oggetti, ma doveva prevedere possibilmente l'interazione che c'era tra il protagonista e l'ambiente, gli oggetti stessi. Quindi era importante dare questa possibilità di scelta e questa possibilità di non sentirsi possibilmente all'interno di una macchina o di un software, ma di sentirsi all'interno di una storia. E io preferivo appunto limitare magari il numero di location, di luoghi, ma dare all'interno di questi luoghi situazioni più possibile, diciamo, che si evolvessero, che che permettessero di sentirsi in qualche modo appunto in una storia che si sviluppava, che si evolveva. E questo era aiutato dal discorso della grafica, ma era aiutato proprio dalla scelta di tenere le storie molto, molto brevi, che poi alla fine brevi non erano, perché da quello che avevo visto ci voleva del tempo per risolvere. C'è da dire che io ero veramente un maledetto, come mi sono riconosciuto in seguito riguardo agli enigmi che inserivo, soprattutto all'inizio dei giochi, me ne sono anche un po' pentito. Chiedo adesso scusa e perdono in ginocchio a tutti i giocatori che hanno giocato alle mie avventure, però era in effetti una cosa che facevo con la passione, non con la cattiveria, lo dico sinceramente. Appunto, cercavano allo stesso tempo di rendere più facile questo gioco, dando la possibilità di utilizzare verbi alternativi. C'era un limite nel parser di The Kill, che era di riconoscere soltanto le prime quattro lettere delle parole, quindi il vocabolario poteva a volte indurre in qualche equivoco strano, tanto è vero che io avevo previsto anche delle situazioni in cui, diciamo, il giocatore potesse un po' incavolarsi e usare delle parolacce contro il gioco, e avevo previsto delle situazioni in cui, se lui l'avesse fatto più di una volta, addirittura sullo Spectrum si resettava la macchina, era molto cattiva, la terza parolaccia si resettava il gioco. Negli altri casi semplicemente c'era un avviso, c'erano delle rappresaglie così di tipo software, però succedeva che alcuni sinonimi si somigliassero, essendo le prime quattro lettere, a qualche parolaccia, e quindi si creavano anche un po' delle situazioni di equivoco a mia insaputa, che mi hanno rivelato dopo i giocatori col tempo. Ottimo. Ma che, giusto per curiosità, su che macchine programmavi e qual era la tua preferita? Io sono nato, tra virgolette, con lo Spectrum. Tra l'altro oggi è il trentesimo compleanno dello Spectrum, quindi facciamo gli auguri a questa macchina. Auguri, auguri. Che ha cambiato non solo la mia vita, ma quella di tantissime persone. Era diffusissimo, come sapete, in Gran Bretagna, nel Regno Unito, ma anche in Italia ha avuto una bella storia. Ovviamente ho iniziato sullo Spectrum, e The Kill è nato sullo Spectrum. C'è stato poi questo cambio di scelta da parte dell'editore, che nelle versioni Commodore 64 dei giochi aveva come collaboratore Roberto Tabacco e Hans Pew. A un certo punto, di fronte al discorso del parser, che era un po' sacrificato nelle loro avventure perché si puntava tantissimo sulla grafica bitmap sui giochi di Tabacco e Pew, e a un certo punto l'editore ha voluto scegliere di avere me come collaboratore anche per il Commodore 64. Per fortuna il The Kill esisteva multipiattaforma, all'epoca c'era addirittura per l'Amstrad, che però non c'è stato verso di fare delle versioni per Amstrad perché era molto limitata la diffusione in Italia di quella macchina. Quindi ogni volta programmavo sempre direttamente sulla macchina, cercavo di farlo dandomi degli strumenti che facilitassero le cose. All'inizio programmavo sullo Spectrum usando le cassette, quindi puoi immaginare cosa succedeva se mi resettava il computer o se non veniva bene la registrazione, era proprio da uccidersi. E non ti dico quante cassette compravo con la paura che mi si rovinasse il nastro e perdessi il sorgente di qualche gioco. Poi per fortuna sono venute fuori la possibilità di registrare sui floppy da 3,5 pollici, delle interfacce che permettevano di creare uno snapshot della memoria, quindi potevo salvare in qualsiasi momento, in pochi secondi, cose incredibili per l'epoca. E su Commodore 64 c'era, per fortuna, anche il disco che era di serie, il 1541, se mi ricordo bene, e c'era la possibilità di salvare su floppy da 5 pollici, quindi in quel caso c'era questo. Su MSX utilizzavo anche una macchina con il floppy da 3,5 pollici, quindi anche lì, quando programmavo in BASIC, salvavo di volta in volta le versioni del gioco successive, mi creavo le versioni progressive, diciamo, man mano che lavoravo. Si stampava molto su carta a modulo continuo per verificare tutti i listati, diciamo, le tabelle, vedere che fosse tutto a posto, perché non era neanche facile, diciamo, lavorare. E tra l'altro una curiosità particolare che magari voglio rivelare, che non tutti sanno, è che avevo dotato lo Spectrum di una tastiera a tasti rigidi, perché lo Spectrum notoriamente aveva questi tasti di gomma malefici che da una parte non facevano rumore e quindi erano molto comodi da usare nel silenzio della notte anche in casa senza disturbare nessuno. Dall'altra però tendevano prima di tutto a scolorirsi e poi erano scomodi quando si doveva digitare a lungo, quindi avevo comprato questa tastiera professionale tra virgolette prodotta addirittura da una ditta italiana nella quale veniva incastonato lo Spectrum e quindi diventava una tastiera rigida tipo quella del Commodore 64, addirittura col tastino numerico, cosa per l'epoca veramente un lusso. Quindi c'era tantissimo da digitare e le macchine erano quelle che erano, quindi si cercava di lavorare il più comodamente possibile, non c'era la possibilità di farlo su altre macchine e poi importarlo come si fa adesso, che si sviluppa su una piattaforma e poi dopo si compila su altre. Ho tentato in seguito poi di rifare la stessa cosa sull'Amiga, ma ormai purtroppo la moda delle avventure era passata, ma già stavo rielaborando il modulo già rielaborato di Colombini, riscrivendolo in Amos Basic su Amiga. Però appunto quel progetto si è fermato e all'Amiga a un certo punto l'ho venduto addirittura, purtroppo, con mio grande dispiacere. Ok, a parte il fatto che probabilmente verrai condannato per questa vendita dell'Amiga, volevo chiederti questa cosa, nel senso che appunto in introduzione abbiamo accennato un po' anche quello che era il panorama internazionale, sicuramente se vogliamo anche fra virgolette dominato da una grandissima casa come Infocom. Ecco, volevo chiederti per te quali fossero o quali ritieni siano un po' le pietre miliari, quelle che al di là di Planet of Death che abbiamo accennato prima fossero un po' i tuoi riferimenti, e quali possono essere appunto secondo te avventure da ricordare, ecco, mettiamola così. Sì, allora, anche lì c'è da fare una distinzione, perché se vogliamo le pietre miliari in assoluto sono le avventure della Infocom, che rappresentano le avventure testuali per eccellenza, infatti erano praticamente solo testo e avevano un parser incredibile, nello stesso tempo avevano questa caratteristica di essere vendute in confezioni dove venivano introdotti degli oggetti che avevano a che fare col gioco, quindi si creavano proprio un'ambientazione molto particolare in questi giochi. Il problema delle avventure di Infocom è che essendo molto basate sul testo e con testi molto lunghi, in Italia non hanno avuto una grande affermazione, perché purtroppo il problema dell'inglese c'era, cosa che non è successa invece con le avventure della Level 9 e con quelle di Adventure International. Level 9 ne ha pubblicate diverse, ma Adventure International si è affermata di più perché aveva da una parte le avventure di Scott Adams, che io molto spesso, senza falsa modestia, cito come il mio alter ego americano praticamente, perché ha avuto più o meno un trascorso come il mio a livello di produzione, di sviluppo. E quindi c'erano queste avventure di Scott Adams, che erano molto belle e molto sintetiche dal punto di vista del testo, e soprattutto erano arricchite dalla grafica a metà schermo, quindi anche chi era italiano riusciva a destreggiarsi in queste avventure. In più, nella stessa serie di Adventure International sono state pubblicate le avventure dedicate ai supereroi, Incredibile Hulk e Spider-Man, che hanno avuto appunto una certa affermazione anche da noi. Quindi ritengo un po', vedo queste come le sia per me come formazione, e quindi che hanno dato un'impronta anche al modo in cui poi ho programmato, sia per tante persone in Italia che hanno avuto questo approccio con le avventure prima con quelle diciamo in inglese, o le hanno anche affiancate a quelle italiane, perché chi aveva la passione non si fermava, giustamente era un po' una passione viscerale, si cercava di esplorare in tutti i modi, di recuperare tutte le avventure possibili, perché ogni volta era una sfida nuova ed era più che leggere un libro o vedere un film, era proprio vivere una storia, quindi c'era questa emozione che cercava di rinnovare ogni volta. Ci sono state delle produzioni minori, soprattutto una lunga produzione basata proprio su The Kill anche all'estero, però appunto si trattava di produzioni sporadiche. Un'altra software house che vorrei citare, che era molto importante, era la Melbourne House, che aveva creato l'avventura di The Hobbit e aveva creato anche l'avventura di Sherlock Holmes, che erano le prime avventure con un parser complesso e con un utilizzo dei comandi appunto molto complesso, che permetteva di dire, di utilizzare gli avverbi, di utilizzare le ripetizioni, parlare con i personaggi, quindi dialogare. A quell'epoca era anche quello un grosso passo avanti, quindi anche quelle hanno lasciato una loro impronta importante. Beh, sicuramente diciamo che è spaziato in lungo e largo e dandoci anche alcuni accenni di software house probabilmente non così famose, ma che appunto, come giustamente ricordi, hanno diciamo segnato la storia. Torniamo adesso un attimo, magari facendo un passo indietro, a quello che mi stai raccontando, nel senso che c'è stato il Commodore 64, c'è stato lo Spectrum, già con l'Amiga appunto il genere sembrava un po' meno morto, ecco, un po' più morto, non un po' meno morto, scusa. Vorrei chiederti, visto che appunto tu hai vissuto quell'epoca, che evoluzione c'è stata l'avventura testuale e in che momento c'è stato il, diciamo, la fine di un genere che comunque ha fatto storia? Sì, è stato un passaggio, diciamo, non esattamente graduale, nel senso che l'evoluzione delle storie interattive stava già avvenendo mentre ancora erano abbastanza vive le avventure testuali o comunque miste di testa grafica. Molti ricorderanno l'arrivo di The Pawn come avventura o di giochi come giochi dove c'era una parte grafica consistente, e soprattutto le avventure della Lucasfilm che hanno introdotto il genere punta e clicca. Questo è stato, diciamo, il primo passaggio, la prima evoluzione da un utilizzo dei comandi digitati a un utilizzo dei comandi che erano ancora sotto forma di parole ma venivano scelti cliccando, e dove la parte grafica aveva una preponderanza, quindi lo schermo era occupato quasi interamente dalla grafica e le due righe in basso avevano soltanto questo elenco di comandi che potevano essere interfacciati anche con gli oggetti della scena. Quindi il passaggio è stato fondamentalmente questo. È stato un passaggio che ha tolto l'ingrediente che purtroppo rendeva belle le avventure testuali e che ancora oggi permette, come dicevo, di sopravvivere a questo genere, che è l'immaginazione. Perché nessuna grafica, per quanto realistica, come quelle che abbiamo oggi, quindi con i giochi che giochiamo oggi, che può essere Assassin's Creed o qualsiasi altro gioco di questo tipo, nessuna di queste immagini, di queste evoluzioni dinamiche in 3D, realistiche, fotorealistiche, che sembrano dei film, potrà mai sostituire quello che è l'immaginazione della persona, quello individuale, cioè l'immagine che la persona, il singolo giocatore crea dentro la sua mente mentre legge del testo, che è la stessa cosa che avviene quando leggiamo un libro e poi lo confrontiamo con il film tratto dal libro. Diciamo che il film magari può essere un buon modo di rendere il libro abbastanza fedele, ma l'emozione che abbiamo provato nel creare dentro di noi quello che creavamo, le immagini, tutte le scene che creavamo dei personaggi, magari la voce che immaginavamo di questi personaggi leggendo il testo, difficilmente o quasi è quasi impossibile che si possa poi ritrovare in qualcosa che ci viene imposto da una terza persona, da un regista o da un programmatore sotto forma di film o di animazione grafica 3D. Quindi il passaggio, lo snaturare il senso dell'avventura testuale è stato questo, cioè la perdita, la grande perdita di questa emozione individuale, di questo essere, diciamo, i veri protagonisti e i veri... Tra l'altro eravamo tutti, perché mi ci metto anch'io, perché ho giocato anch'io, eravamo personaggi, quindi protagonisti del gioco, eravamo registi, eravamo attori, quindi giocavamo, vivevamo il gioco al 100% totalmente dentro di noi. Beh, sicuramente hai detto una cosa non banale, nel senso che appunto in un'epoca in dove la grafica viene esaltata sempre, quando si parla di videogioco si dice grafica realistica, quanto mai viste prima, là quando invece ci si chiedeva appunto al giocatore di sforzarsi con l'immaginazione, di entrare in un mondo nuovo, in un mondo diverso, probabilmente appunto c'era un qualcosa di diverso. Nell'introduzione mi ho accennato fra l'altro anche che appunto passami il termine, il dualismo che c'era fra Federico Colombini, con Colombini che diciamo ha vissuto una prima parte più importante dove ha introdotto in Italia il genere e poi si è arrivati appunto con le tue opere, le tue avventure. Ecco, che rapporto c'era fra di voi, se ci può raccontare qualcosa, e quanto vi sentivate soli? Guarda, Colombini, che tra l'altro incredibilmente io ho incontrato dal vivo soltanto un anno fa, può sembrare incredibile, non ci eravamo mai incontrati prima. Colombini è stato, Enrico è stato il vero pioniere dal punto di vista delle avventure in Italia, perché lui appunto programmava quando in Italia c'erano questi primi passi del personal computing con l'Apple II, e ha programmato la sua avventura nel castello per l'Apple, dalla quale poi ha tratto anche il libro dove appunto spiegava questo modulo, libro sul quale io ho studiato per ricreare il modulo per MSX. Ma in realtà per me Colombini è stato anche un mentore, nel senso che quando ho mosso i primi passi nell'informatica, Colombini era il divulgatore dell'epoca e io studiavo sul suo materiale di divulgazione che lui pubblicava con la Jackson, con altri editori, quindi ho imparato a programmare in BASIC utilizzando le sue dispense, il suo materiale. E quando mi sono trovato poi a dover utilizzare il suo modulo, avevamo una certa differenza di età, lui ha qualche anno più di me ovviamente, avendo iniziato quasi 10 anni prima, e penso anche con l'età ci sia questo dislivello di un decennio più o meno. Mi ricordo che appunto avevo avuto delle difficoltà nell'andare a modificare delle righe di codice, e praticamente ho rintracciato il suo numero di telefono e gli ho telefonato per chiedergli a voce delle informazioni, perché non c'era l'email all'epoca, giustamente non esisteva internet. Quindi la cosa un po', diciamo, triste è che l'ho chiamato di domenica mattina abbastanza presto per cui non è stato molto contento di questa cosa, però è stato gentilissimo, mi ha risposto, mi ha chiesto semplicemente di chiamarlo più tardi, cosa che ho fatto. Infatti ero ostinato, non rinunciavo nonostante la figuraccia. È stato bello quando poi ci siamo appunto incontrati, raccontarci di nuovo, rivivere questa cosa a distanza di quasi 30 anni, incredibile, e riderci ancora sopra. Penso. Non mi ha dato un pugno neanche dopo, neanche in occasione della pizza che abbiamo mangiato quella sera, per fortuna. E quindi appunto la differenza, la dualità è questa, cioè lui ha iniziato prima di me, io lo ritengo un pioniere, per questo ha tutto il mio rispetto. E lo ritengo anche la persona che ha aperto questo genere in Italia, anche se nel suo periodo c'erano già altre avventure in italiano. Io mi ricordo un'avventura su Apple che si chiamava Marasma Galattico, che era una bellissima avventura, tra l'altro anche con della grafica. Non ricordo chi l'avesse sviluppata, ricordo che ci ho giocato. Quindi era un genere che comunque già faceva strada, faceva breccia nell'interesse del pubblico italiano, per fortuna. Io mi sono trovato, ho avuto la fortuna di trovarmi nel momento giusto. È un momento che è durato poco, perché è durato poco più di un anno, però devo dire che l'anno che ha lasciato la traccia più importante, posso dire che ha lasciato la traccia più importante in tutta la mia carriera e anche nella mia vita finora come esperienza. Diciamo che, a parte la curiosità, se magari vuoi raccontarcela di come sei riuscito a recuperare questo numero di telefono in un'epoca in cui il massimo supporto informatico erano le pagine bianche, credo. Magari se ci vuoi raccontare qualche aneddoto particolare in questa tua esperienza, in questo tuo essere appunto sul campo delle avventure testuali. Sì, il recupero del numero di telefono, ricordo vagamente di aver utilizzato i servizi che all'epoca aveva la Telecom per rintracciare gli utenti telefonici, che non c'è ora che mi fai ricordare, io poi sono nato e cresciuto in un piccolo paese di provincia del sud, avevamo quello che si chiamava all'epoca il centralino, che cioè rimaneva il nome delle cose che si usavano 30 anni prima, ed era praticamente la cabina telefonica all'interno di un negozio dove si pagavano gli scatti, non c'erano i gettoni, quindi andavi a telefonare e pagavi gli scatti, e questi avevano un bello scaffale con tutti gli elenchi telefonici di tutta Italia, per cui non mi è stato difficile risalire alla località, andare a cercare il Colombini Enrico sull'elenco telefonico e sfacciatamente andarlo a telefonare di domenica mattina presto, tra l'altro. Ma questo è stato il metodo, adesso mi hai fatto venire in mente, non ci pensavo neanche più effettivamente. Mi ha riportato alla mente proprio l'immagine di questo negozio di alimentari, tra l'altro, che aveva questa cabina telefonica alla Clark Kent con tutti questi elenchi. E invece per quanto riguarda, diciamo, aneddoti, ce ne sono tanti, perché diciamo, ecco, una cosa bella che mi piace ricordare è che insieme alla pubblicazione delle avventure l'editore aveva voluto istituire quella che all'epoca chiamavamo una hotline, cioè dare la possibilità ai lettori, al pubblico, di telefonare per chiedere aiuto e consigli in determinati orari, e ovviamente ero io stesso a gestire la hotline, non è che ci fosse una segretaria o qualcosa del genere, io facevo un po' tutto, ero factotum, e mi ricordo queste bellissime telefonate di ragazzini, anche di persone anche un po' più cresciute, dei ragazzini che tante volte chiamavano per chiedere aiuto, poi si fermavano anche a chiacchierare, era un modo anche per dialogare, e la cosa molto bella è che alcuni di loro si facevano accompagnare dai genitori per venirmi a trovare, venirmi a conoscere in redazione, e tra l'altro una delle cose più belle di tutto questo è che uno dei ragazzini che è venuto con suo padre a trovarmi dalla Liguria all'epoca, da Imperia, si chiama Marco Vallarino, e praticamente Marco, oltre ad essere diventato stimolato, come lui stesso ha detto, dal giocare quei giochi, è diventato un autore di romanzi e di racconti noir, è diventato uno scrittore praticamente. Lui stesso oggi scrive delle avventure, infatti ha pubblicato un paio d'anni fa un'avventura che si chiama Darkis, che è una di quelle più conosciute al momento, è stata recensita su vari media. Ed è praticamente la testimonianza di come ancora ci siano persone che sviluppano le avventure testuali. La cosa bella è stata appunto questa. Io conservo ancora la fotografia di Marco quando è venuto a trovarmi con suo padre. Si è scattato la foto insieme a me, una classica foto di quelle vecchie, quando si facevano le foto, non c'erano le foto digitali, quindi erano foto che magari venivano anche sbiadite, lo sapevi dopo quando le sviluppavi che erano venute male, però l'ho conservata per questo diciamo ricordo molto bello. E per cui l'hotline era uno di questi fenomeni particolari, diciamo, interessanti, e che mi sono rimasti molto impressi. L'altra cosa, l'altro aneddoto, l'altra curiosità è che io ho sviluppato i giochi da solo per tantissimo tempo, poi dopo un po' ho lanciato un appello sulla rivista per vedere se c'era qualcuno che voleva mandare lui stesso dei giochi, cioè magari qualche gioco sviluppato a casa, e pubblicarlo e renderlo pubblico, parlarne semplicemente. E lì ho conosciuto Giampaolo Gentili, è un ragazzo della provincia di Torino, che è stato l'autore di alcune delle avventure che io ho pubblicato, quindi in realtà il soggetto di queste storie, con moltissimi dettagli, l'aveva creato lui, infatti è riportato giustamente anche nella schermata iniziale. Io mi sono occupato di creare praticamente la grafica e di sviluppare la parte software, quindi di trasformare in un programma con The Kill il suo soggetto, quello che aveva inviato. Un altro paio di collaborazioni invece era nato con un ragazzo che si occupava invece di videogiochi standard all'epoca, che purtroppo adesso non c'è più, Nicola Carpentieri. E Nicola è stato, diciamo, è voluto lui stesso, dato che era lì in redazione che lavorava per questi altri videogiochi, incuriosito da queste avventure, mi propose di suggerire lui stesso una storia, e dai suoi suggerimenti, da questa sua storia un po' strana, particolare, nacque una delle avventure che si chiamava Green Dimension, e che è stata appunto pubblicata nella serie delle mie avventure. Lui dovrebbe essere stato citato anche lui, giustamente, nello schema di apertura. Un amico di Nicola, tra l'altro, di cui non ricordo più il nome, che è rimasto così, mi è rimasta questo desiderio di rintracciarlo prima o poi, preparò tre soggetti per tre avventure che dovevano essere pubblicate sul numero che non è mai uscito poi di Viking o di Explorer, adesso non mi ricordo quale delle due. E quindi c'erano queste tre storie di cui questo ragazzo non solo aveva scritto i soggetti, quindi con tutto il personaggio, la storia, la trama e così via, ma aveva addirittura disegnato delle tavole, disegnandole in modo che potessero essere poi riprodotte con la grafica di Illustrator. Quindi mi sono rimaste queste tavole disegnate e queste storie abbozzate con tutto il soggetto, tre giochi che non sono mai comparsi sul mercato, giochi per i quali ho avuto anche la proposta da Marco Vallarino di ricrearli con uno degli strumenti che ancora oggi si usano, che è Inform, e quindi di crearli come avventure testuali e pubblicarle finalmente, dagli vita, piuttosto che lasciarle lì in sospeso per decenni. Magari potrebbe essere una bella esperienza anche di ritrovarmi a sviluppare questi giochi. Chissà che non abbia il tempo e la possibilità di farlo, magari in collaborazione proprio con Marco, che oltre ad essere stato un giocatore delle mie avventure da bambino, da ragazzino, poi è diventato lui stesso autore con Darkis e poi scrittore di libri a sua volta, quindi di aver trovato anche questa sua vena creativa in questo senso. Vedremo. Incrociamo le dita, dai. Giusto appunto, facendo magari un attimo di escurso storico, partendo da te per poi arrivare agli accenni che tu dai su quella che è l'evoluzione attuale del genere. Ma chi volesse in questo momento giocare le tue avventure? Perché ricordiamo a chi ci sta ascoltando che stiamo parlando di svariate decine di avventure. ha qualche possibilità? Hai pensato in qualche modo di poterle rendere disponibili ai giocatori, oppure sono perle che sono purtroppo adesso sono andate perdute? Guarda, no, la cosa interessante, simpatica, e che soprattutto mi fa piacere, è che i file, diciamo, per l'emulazione delle mie avventure sono veramente reperibili quasi dovunque. Io ho riprovato le mie avventure su siti, diciamo repository, su siti di software di retro gaming, addirittura brasiliani, ungheresi, di nazionalità assurde. Infatti mi sono chiesto come mai, addirittura ho trovato su World of Spectrum, che è il famoso sito britannico dedicato alla macchina Sinclair, ho visto che erano catalogati insieme agli altri giochi delle software house famose dell'epoca, quindi è facile trovare i file tape o quelli, diciamo, quelli caricabili con gli emulatori. Addirittura, cosa stranissima, proprio in questi giorni, qualche giorno fa, mi ha scritto un ragazzo, io poi li chiamo ragazzi perché parlo di persone che magari hanno 35 anni, io ne ho quasi 50, e mi ha scritto perché mi ha chiesto aiuto su un mio gioco che lui stava giocando. Mi ha scritto da Addis Abeba, dove lui sta lavorando, un italiano, e mi ha scritto questa email dicendo: senti, mi devi aiutare perché io sto facendo questo gioco dopo 25 anni, lo sto rigiocando e non so più come fare, mi dice come devo fare a questo punto. Quindi ti lascio immaginare che comunque fortunatamente c'è questa possibilità di usare gli emulatori, quindi è molto facile, facendo una ricerca, scrivendo addirittura il titolo del gioco, si riesce a reperirlo facilmente. Poi c'è stata anche l'iniziativa di Ready 64, che ha riportato tutti i giochi in versione 64 sul loro sito, quindi anche lì c'è tutta la documentazione. C'è la famosa password per iniziare il gioco, perché l'editore all'epoca c'era, ecco, questo è un altro aneddoto che non tutti o forse quasi nessuno conosce, il motivo per cui c'è una password all'inizio dei miei giochi. All'epoca c'era una legge per l'editoria che prevedeva il fatto di dover legare necessariamente la parte cartacea alla cassetta, altrimenti la cassetta veniva considerata un qualcosa tipo le cassette musicali, quindi c'era tutta una tassazione diversa e più pesante che avrebbe aumentato il prezzo di vendita della rivista, della cassetta. Quindi per poter creare questo legame tra la cassetta del gioco e la rivista, l'unico modo era stato, ovviamente imposto dall'editore e io mi sono adeguato, di inserire la richiesta di questa password all'inizio del gioco, e la password doveva essere riportata sulla parte stampata, quindi sulla rivistina che c'era allegata alla cassetta. Quindi fortunatamente chi ha messo online questi giochi, come dicevo appunto, in tutti questi siti che si trovano in giro con le versioni emulate, ha messo fortunatamente anche ha riportato la password, per fortuna. Addirittura qualcuno ha scritto anche la parte introduttiva, che era molto importante, cioè la parte testuale che non si leggeva nel gioco, che era quella che introduceva la storia, che era sempre almeno una pagina o due di testo con la descrizione dell'ambientazione del personaggio e della finalità della storia, quindi iniziava come un racconto e proseguiva poi appunto con l'avventura stessa. Quindi è sufficiente comunque fare qualche ricerca su internet, e gli emulatori se ne trovano. Tu magari, se vuoi consigliarci qualcosa, qualche emulatore, non lo so, dalla tua esperienza. Sì, no, gli emulatori sono tantissimi, generalmente si trovano direttamente su questi siti dove si trovano anche i giochi, quindi se si va su Ready 64 ovviamente ci sono tutti i consigli sugli emulatori per Commodore 64 più adatti e più funzionali. Se si va su World of Spectrum, anche lì c'è tutta una rassegna di emulatori, la maggior parte sono gratuiti, per cui c'è l'imbarazzo della scelta. Poi addirittura girano su tutte le macchine, quindi ci sono emulatori per Linux, emulatori per Macintosh, per Windows, e addirittura gli emulatori per i dispositivi portatili, che oggi come oggi, diciamo, sono vano per la maggiore, quindi molto spesso c'è questa tendenza, non so, di utilizzare il tablet o lo smartphone Android magari per far girare un emulatore di 64 o di Spectrum e poter rigiocare, oltre ai miei giochi, anche tutti gli altri giochi dell'epoca. Ok, questo è sicuramente una cosa importante, e sicuramente aggiungeremo delle note a corredo dell'episodio, appunto per dare qualche indicazione ai nostri ascoltatori. Vorrei chiederti, diciamo, due domande, giusto per arrivare un po' alla conclusione di questa bellissima chiacchierata. La prima è se ci puoi raccontare un po' quello che era il metodo distributivo dell'epoca, nel senso che hai accennato qualcosa, discorso cassetta, con allegato dei fogli, appunto capire se il canale principe, come immagino che fosse, era l'edicola, oppure se in qualche modo c'è un ritorno anche dei negozi specializzati. E poi aspettiamo una prima risposta qua e poi proseguiamo con quella di chiusura, dai. Sì, questa è una domanda molto importante, anzi ti ringrazio di avermela fatta perché apre un po' anche una comprensione maggiore dello scenario dell'epoca. Diciamo che la distribuzione per quanto riguarda la maggior parte dei giochi avveniva nelle edicole, perché era il canale che riusciva a raggiungere in modo più capillare le persone. Qual era il problema però in questo senso? Il problema era che da una parte la distribuzione edicola, infatti abbiamo visto la crisi dell'editoria che c'è da tanti anni purtroppo, è una distribuzione che non è mirata, nel senso che il materiale, le copie di un gioco, in questo caso di più giochi, erano distribuite in modo abbastanza approssimativo, tentando di basarsi sulla richiesta poi degli acquisti successivi dei vari numeri, però c'era il problema che molto spesso in alcune edicole rimanevano invendute, in altre magari dove se ne sarebbero vendute di più venivano a mancare, e quindi c'era questo scompenso e non c'era la possibilità, non era tanto facile andare a richiedere poi questi numeri o ritrovarli da qualche parte. L'altro fattore invece totalmente negativo è da una parte per il mercato, positivo forse per gli utenti, per gli acquirenti, per il pubblico. Quindi appunto, come stai dicendo, la distribuzione ne dicono non era così ottimale, però immagino non fosse l'unico problema a cui andate incontro. Beh sì, come autori in effetti non era questo l'unico problema, perché appunto il problema principale era quello lì del raggiungere i potenziali giocatori, e l'altro problema era il fatto di doversi tra virgolette accontentare, scendere a compromessi per un discorso di dover praticamente inserire per esempio 3 giochi in una cassetta che costava, che so, 10.000 lire dell'epoca, quando all'estero un autore che creava un gioco metteva in commercio un unico titolo a un prezzo decisamente superiore e prendeva i diritti, cioè non prendeva una cifra forfettaria come capitava a chi era autore in Italia all'epoca, che aveva un suo budget e quindi prendeva quella cifra fissa, fatturava quello come prestazione, dopodiché qualunque fosse il successo dell'opera non ne risentiva in modo diciamo proporzionale a livello non tanto di fama quanto di, in questo caso, di guadagno. Però c'era anche il discorso del prestigio, perché vuoi avere, non so, una confezione di un gioco con la copertina dedicata a quel singolo gioco, con il fatto di avere in evidenza la propria opera non solo come prodotto ma anche come opera e così via. E poi oltretutto, appunto, io mi ricordo di aver fatto più di 70 giochi. Considera cosa sarebbe stato fare 70 giochi all'estero, avrebbe significato viverci per tanto tempo, anche perché il problema qual era? Che essendoci 3 giochi per ogni cassetta, e parlo ovviamente di 3 giochi per versione, perché c'era la versione Spectrum, 64, MSX, eccetera, il problema era che chi si trovava a comprare questi giochi, ne comprava 3 alla volta, essendo dei giochi che richiedono del tempo per essere giocati, alla fine c'era una saturazione del mercato, tant'è vero che dopo un anno è andato a morire, perché giustamente la gente si trovava con una quantità di giochi irrisolti o comunque neanche iniziati e alla fine non ne comprava più, cosa che non sarebbe successa diluendo nel tempo appunto questi giochi singolarmente, vendendoli magari in negozio piuttosto che in edicola, o perché no, anche in edicola, ma uno per volta, con una certa un certo valore aggiunto al prodotto e all'opera. Questo era l'altro lato negativo. Chiaro. E invece qualche aspetto positivo che hai trovato, comunque, magari immagino ad esempio che comunque il canale edicola fosse più a portata di mano per il giocatore dell'epoca, non so, tu cosa ne dici? Sì, sicuramente sì, sicuramente per l'epoca storica e per il modo in cui in Italia c'è stata la diffusione del software, l'edicola, diciamocelo chiaramente, era in quel momento l'unico canale, perché io ricordo di aver, da acquirente, quindi da utente di computer, di aver comprato del software che pensavo di comprare originale da un negozio, e mi è stato recapitato con delle cassette con biecamente duplicate con le etichette scritte a macchina, se non addirittura a mano. Quindi diciamo che alla fine l'edicola era un modo di ufficializzare in modo così, in modo regolare, legale, tutta la propria opera e vederla distribuire in questo modo, per non tanto capillare purtroppo, però in qualche modo funzionale a quello che era il mercato di allora, e permetteva alla gente di accedere a questi prodotti. C'era per fortuna poi anche l'altro discorso, nel mio caso c'era il discorso che l'editore era un editore che aveva una buona distribuzione generale di altri prodotti, quindi c'era un rilancio tra un prodotto e l'altro, e quindi si faceva pubblicità tra loro, e c'era anche il modo di mettere in evidenza la presenza di queste avventure in giro sulle altre cassette, perché magari erano cassette di videogiochi, cosa che appunto, come dicevo, distribuzione che comunque nel tempo ha dato un po', ha penalizzato un po' in generale il mercato informatico in Italia, proprio quello dello sviluppo, perché essendoci questo mercato un po' così balordo di prodotti tra virgolette illegali, perché erano comunque l'unico modo di farli arrivare in giro, perché non c'erano i negozi a supportarlo. Nel caso delle avventure erano forse gli unici prodotti legali, gli unici prodotti veramente di autore che venivano venduti con il nome originale. Il resto erano tutti giochi arcade che venivano modificati nel nome, addirittura a volte nelle scritte, tipo score che diventava punti, addirittura cambiava il nome dei personaggi. Però parliamoci chiaro che cioè non c'era un altro modo di non c'era una legge che tutelasse questo, ma non c'era neanche un altro modo per spingere questo commercio, perché la distribuzione era bassissima, i negozi a loro volta erano ancora più illegali delle edicole, perché scopiazzavano obiettivamente tutto, e quindi diciamo che ecco, ci si è accontentati, è stato bello finché è durato, perché poi appunto in un anno si è esaurita questa vena di interesse purtroppo per i giochi, si è esaurita ecco a livello di grossa distribuzione, a livello di mercato abbastanza vasto, non si è esaurita come dicevamo ancora oggi, cioè ancora oggi è vivo il fenomeno delle avventure testuali, per quanto sia una cosa underground. Ecco, vorrei chiudere proprio con questa, con una breve carrellata oppure qualche spunto che puoi lanciare su quello che è a tuo modo di vedere il panorama attuale delle avventure testuali, ovvero se ad esempio qualche autore da segnalare, oppure cosa ne pensi e quale potrebbe essere il futuro per questo, che comunque appunto un genere di nicchia. Sì, diciamo che al momento la risorsa che fa da punto di riferimento è IF Italia, ovviamente, perché è stata quella che ha sostenuto sempre la produzione indie, chiamiamo così, delle avventure testuali, e grazie alla quale ci sono anche dei bellissimi contest, tipo la One Room Contest, dove c'è la sfida a creare un'avventura che abbia un'unica location e tutto si svolge in quell'unica location e così via. Quindi ci sono delle bellissime gare, ci sono tantissime opere di vari autori, appunto dicevo, una delle più recenti con cui addirittura ho giocato è stata quella di Marco Vallarino, Darkis, che ho potuto giocare con l'interprete Frost su un tablet Android. Quindi c'è anche questa fortuna di questi giochi sviluppati magari con Inform o con piattaforme che hanno una certa diffusione, che hanno degli interpreti che sono stati poi adattati alle varie piattaforme anche mobili. E questo discorso dei dispositivi mobili è un modo per rilanciare in qualche modo il fenomeno, non tanto da un punto di vista di commercio. La maggior parte delle realtà attuali sono realtà gratuite, sono giochi creati per il gusto di crearli e per diffonderli, come ho fatto io all'epoca con la mia prima avventura. Però in questo panorama potrebbe esserci anche un incoraggiamento a fare qualcosa di commerciale, magari di più impegnativo. Diciamo che per ora tiene vivo l'interesse ancora degli appassionati, che sono effettivamente ancora abbastanza, cioè c'è un buon parco di appassionati. La cosa particolare è che mentre gli appassionati di allora erano ragazzini, gli appassionati di oggi sono i ragazzini di allora, che sono persone di una certa età, persone mature, che rivivono questa gioia di giocare la narrativa interattiva sotto forma di avventure testuali, quindi lo fanno volentieri. Io stesso mi sono imbattuto qualche giorno fa in una piattaforma di sviluppo che si chiama Quest, che non conoscevo assolutamente, e l'ho scoperta perché sono abbastanza interessato al discorso dei libri game in formato ebook, adesso che ci sono questi reader con il giostro elettronico, tipo il Kindle o il Sony e così via. E ho notato questa schermata di questo gioco che utilizzava i link nel testo per facilitare il gioco, quindi sembrava in qualche modo che limitasse, che diventasse, fosse come un libro game, quindi si cliccasse su un link per andare da un'altra parte piuttosto che un'altra all'interno della storia. Invece ho notato che poi questi link aprivano un menu a scorrimento, quindi tipo su un iPhone, facciamo un esempio, c'era la possibilità di scegliere le azioni su quella parola che era stata evidenziata con un link. Quindi se trattava di un oggetto c'erano le classiche voci tipo prendi, lascia, usa e così via. Oppure se si cliccava su un altro oggetto poteva essere usa su questo oggetto altri oggetti che tu hai con te. Quindi non c'era neanche bisogno di digitare. Per i puristi c'è da dire che questa piattaforma lascia comunque la possibilità di inserire dei comandi scritti digitandoli sulla tastiera. Quindi da una parte facilita il gioco a chi vuole giocare su dispositivi mobili, dall'altra permette sia sui dispositivi mobili, soprattutto sul computer, di usare la tastiera per dare dei comandi. E posso dire che la piattaforma stessa, questa piattaforma di sviluppo, è in realtà abbastanza complessa, ma nello stesso tempo complessa come possibilità, quindi flessibile, ma nello stesso tempo anche abbastanza semplice da imparare, quindi ha una curva di apprendimento molto più leggera rispetto a Inform o qualche altro sistema di sviluppo che ancora viene tradotto o sviluppato in varie parti del mondo. L'altro vantaggio è che chi vuole sviluppare con Quest, che esiste in versione Windows gratuita, io ho contattato l'autore perché lui si mette a disposizione per fare il porting sui dispositivi mobili, in particolare su iPhone. Il vantaggio qual è? Che se si decide di sviluppare un gioco per una diffusione gratuita, lui la conversione e la pubblicazione la fa gratuitamente, quindi non chiede nulla. Se si decide di guadagnarci qualcosa, la fa appunto dividendo i profitti in due, 50-50, e se invece si desidera farlo per guadagnarci qualcosa in modo indipendente, lui chiede una cifra che è 200 sterline o euro, adesso non ricordo. Quindi chi vuole ancora oggi cimentarsi in questo tipo di sviluppo, che ha delle idee, perché la cosa bella delle avventure è il fatto che si abbiano continuamente delle idee su una storia, su degli enigmi, su qualcosa da creare, anche piccola, perché non è che debba essere per forza un mondo sconfinato. Nelle mie avventure c'erano un numero limitato di location, primo perché avevo pochissimo tempo per svilupparle, secondo perché già così richiedevano tanto tempo per essere risolte, essendocene tre per ogni numero non potevo costringere il giocatore a stare un mese su un'unica storia, perché altrimenti cosa avrebbe comprato a fare tre giochi ogni mese? Cioè diventava una tortura a un certo punto, già erano difficili di per sé, poi come ho detto mi sono pentito più volte di alcuni enigmi, soprattutto all'inizio gioco. Quindi chi vuole farlo sappia che c'è questa possibilità, al limite se voi avete la possibilità di mettere il link nel post, nell'articolo che accompagna il podcast, fatelo tranquillamente, te lo farò avere eventualmente questo link, come quello di altre cose che ho menzionato, e soprattutto di tenere d'occhio IF Italia o comunque i forum, che ci sono dei forum, dei newsgroup che ancora sono basati sulle avventure testuali e hanno molti appassionati che discutono, dibattono su questi temi e magari si lanciano delle sfide tra loro o comunque collaborano alla risoluzione di alcuni giochi attualmente presenti sul mercato, chiamiamolo mercato, diffusi comunque in rete o diffusi tra i giocatori, perché molto spesso, la maggior parte delle volte è tutta roba gratuita, non ci sono avventure testuali a pagamento, si fa per passione, questa passione che è rimasta sia a chi sviluppa sia a chi effettivamente ci gioca ancora a questi giochi. Perfetto, proprio ringraziandoti per questa passione che comunque emerge dalle tue parole ed è emersa da tutta la chiacchierata che abbiamo fatto, a nome di Archeologia Video Ludica ti ringraziamo calorosamente per questa chiacchierata, questo scambio di un pezzo di storia di cui tu hai fatto parte e di cui sei parte. Quindi un grazie di cuore e niente, alla prossima. Grazie a voi, grazie a te. Un saluto a tutti, appassionati e non. Ciao. Grazie mille, ciao. E dopo questa bellissima intervista con il mitico Bonaventura Di Bella è giunto il momento purtroppo di concludere questa puntata, e chi meglio di Simo può introdurci in quel bar famoso? Sì, al di là dell'ingresso in quel bar su Melee Island, che lo facciamo aprire proprio in questo momento grazie a questo fantastico stacchetto. Allora, l'intervista, come avete potuto sentire tranquillamente, l'ha fatta, l'ha condotta interamente Roberto, diciamo per questioni tecniche, che prima o poi dovremmo organizzarci, perché se questo qua, queste speciali in questa maniera diventeranno prima o poi magari delle buone abitudini, insomma bisognerà essere un po' più preparati, ammettiamolo, insomma, quelli che sono i nostri limiti. Però fortunatamente dico io che non sono stato presente in questa intervista, perché Roberto, veramente ti faccio i miei complimenti, te la sei cavata egregiamente, sei stato sicuramente molto più sintetico di quanto sarebbe stata l'intervista, quanto sarebbe durata l'intervista se l'avessi condotta io, anche perché io c'avevo 50.000 domande che mi frullavano in testa, cioè proprio c'avevo il cursore con i fosfori verdi che scriveva prendi il sasso e via dicendo, insomma. Quindi, però è stata una bellissima intervista, non soltanto perché comunque, vabbè, Buonaventura Di Bello sicuramente, insomma, è, come si è dimostrato, è stato uno dei grandi protagonisti, insomma, di questo del mondo delle avventure grafiche in Italia. Poi ci ha anche ricordato, insomma, cose che ci fa piacere anche ricordare, che sono probabilmente il motivo per cui facciamo questa trasmissione, insomma. Quindi computer, floppy, stampanti aghi, con i quali, cioè quelli col rotolo continuo, il modulo continuo, e non soltanto, anche accenni ad aspetti della nostra società che sono sicuramente molto, molto interessanti, perché fanno parte di un passato che magari quelli della mia generazione ancora un po' si ricordano, come probabilmente appunto anche Di Bello, quando ha parlato appunto della cabina telefonica a scatti che si trovava in alcuni esercizi commerciali nei piccoli paesi, insomma. Quindi veramente mi ha fatto comunque piacere assistere anche passivamente a questa intervista, perché mi ha portato veramente in un qualcosa che è quello che amo, poi, no? E che è stato poi il motivo per cui abbiamo costruito questa trasmissione. Roberto? Beh, sicuramente abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano un periodo storico con chi veramente questo periodo l'ha vissuto, e questo è sicuramente un valore aggiunto rispetto a quello che possono essere le nostre semplici, passatemi il termine, puntate. Al di là di questo, vorrei sottolineare il fatto che appunto in quell'epoca erano pochi gli italiani che potevano dire di effettivamente lavorare nell'industria videoludica, e avere la possibilità di vivere con i loro occhi quello che era un periodo ricco di fermento, che Simone in prima persona e io magari più di straforo, appunto di recupero, sono comunque periodi che hanno segnato il nostro vivere, il nostro lavorare. E che vorrei sottolineare più di tutto, che mi è piaciuto veramente in maniera particolare, è il fatto che l'avventura in quanto tale permette di far muovere l'immaginazione. Quindi questo sicuramente è il valore aggiunto al tutto. Valore aggiunto a tutto, sì. In effetti, vabbè, insomma, penso che ci siamo già abbastanza dilungati nel commento. Io starei qui ore a parlare, ma insomma abbiamo deciso di tenere la trasmissione entro determinati tempi. Ok, Bar su Melee Island abbiamo detto, quindi andiamo un attimo alla conclusione di questa trasmissione, rimandando, insomma, i commenti che magari ci faranno i nostri utenti, sperando, insomma, di aver fatto un buon episodio e soprattutto di aver fatto un buon servizio agli archeologi appassionati di archeologia videoludica, appunto. Prima cosa voglio ringraziare comunque Maurizio Galluzzo, che non solo è un nostro grande fan e ascoltatore, tra l'altro quando l'ho conosciuto, che mi mandò il primo link della prima recensione che fece di archeologia videoludica, non so per quale ragione mi aspettavo, insomma, una persona della mia età, invece è molto molto più grande, anche se non tantissimo, insomma è un professionista del nord-est, veramente una persona estremamente squisita. Ci ha invitati a questo evento che è stato fatto a Venezia, al Venezia Camp, dove io e Stefano Paganini siamo andati a parlare di IPN, ma soprattutto a parlare di archeologia videoludica. Il riscontro che abbiamo avuto è stato veramente molto piacevole, non soltanto l'ospitalità, della quale ovviamente ringrazio sia Stefano Paganini, che veramente mi ha ospitato, che Maurizio Galluzzo, che veramente è stato gentilissimo e mi ha messo completamente a mio agio senza nessunissimo problema. Ma li ringrazio perché comunque è stata un'esperienza interessante, è stata una riunione la mattina e c'è stata questa specie di convegno il pomeriggio, dove insomma ho potuto parlare di fronte agli studenti, soprattutto di Scuola d'Impresa 2.0, di quello che è il mondo del podcast, di come poter realizzare e che business si possono fare con i podcast, ma soprattutto abbiamo presentato Archeologia Videoludica come esempio, insomma, di podcast di successo. Questo è stato veramente un bel piacere, insomma, per me. Vedete, Roberto porta i personaggi importanti, io vado a fare il personaggio invece in giro, Roberto. Ognuno ha i suoi problemi, cioè, rimaniamo in questo ambito metafisico di realtà dove tu sei una persona importante, per me va benissimo. Io faccio la star, non faccio un cazzo, faccio solo quello. Va bene, e sappiamo che recentemente, anche se siamo un po' oltre magari con i tempi, perché è successo recentemente, ma non proprio l'altro ieri, insomma, quindi qualche settimana fa, successivamente poi tra l'altro alla puntata, anzi insomma poco dopo insomma la puntata di cui ne abbiamo parlato, Roberto, è venuto a mancare un grande personaggio. Eh sì, purtroppo è salito all'onore delle cronache solamente appunto per la sua dipartita, ma stiamo parlando di Jack Tramiel, fondatore di Commodore, quindi potete ben immaginare l'importanza che per chiunque abbia toccato un videogioco nella sua vita questo personaggio comunque riveste. Commodore 64, lo schifo VIC, questi, insomma, questi strani computer che in qualche modo hanno segnato la nostra infanzia. Allora, schifo VIC lo dici a sorda sempre, perché no, vabbè, non voglio aggiungere niente, perché poi bene o male ne abbiamo veramente già abbastanza parlato. Sicuramente. Si sa, insomma, che sono un commodoriano, si sa che molto, poi insomma l'ho scritto su Archeologia Videoludica, così come l'ho scritto anche nel mio profilo Facebook, insomma, per chi come me veramente ha vissuto quel periodo, è stato comunque indirettamente, perché poi nessuno lo conosceva allora, chiaramente un personaggio importante, perché ci ha regalato veramente dei momenti importanti nella nostra infanzia e nel rapporto che abbiamo avuto poi successivamente con i videogiochi. Insomma, la Commodore è stata un pezzo di storia fondamentale e indirettamente, anzi direttamente, anche lui, sebbene non essendo un personaggio come Jobs, insomma, non è uno che insomma saliva alle luci della ribalta, insomma, quindi ce ne conosceva praticamente quasi nessuno se non noi che ne abbiamo parlato e chi è veramente appassionato di archeologia informatica e archeologia videoludica. Paradossalmente, dall'altra parte invece c'è l'antagonista, soprattutto in quell'epoca lì, il Sinclair Spectrum. Perché ovviamente se Tramiel noi lo associamo poi fondamentalmente al suo più grande successo, che è il Commodore 64, dall'altra parte il grande antagonista era lo Spectrum, che Roberto compie 30 anni sempre proprio in questo periodo qua, sembra quasi uno scherzo del destino. Sì, diciamo che da una parte sicuramente appunto il fatto che in un periodo così breve si festeggino e si soffre invece dall'altra parte per la mancanza di un personaggio appunto così famoso come Tramiel è sicuramente qualcosa che fa pensare. Fra l'altro sullo Spectrum siamo anche abbastanza indirettamente con questa puntata, visto che è stata una piattaforma su cui diverse avventure testuali girarono, così come il Commodore 64, quindi alla fine possiamo quasi dire che il cerchio si chiude. Sì, che poi Buonaventura Di Bello, se non erro, comunque ha parlato dello Spectrum come prima piattaforma sulla quale ha iniziato, se non sbaglio, sì, a programmare Spectrum, a programmare avventure testuali, quindi insomma queste Commodore 64 e Spectrum sono veramente due macchine fondamentali proprio nei nostri ricordi e nella storia dell'informatica. Quindi in linea massima è chiaro che molto di quello che racconteremo da qui a venire, insomma, sicuramente toccherà in maniera indissolubile quasi queste due macchine. Per il resto diciamo così che commenti, saluti, Facebook, abbracci, Twitter, tutto, genere, sì. Se, li rimandiamo insomma allo speciale, alla puntata normale, insomma, di Archeologia Videoludica, che non dovrebbe venire a breve, cioè dovrebbe venire a breve rispetto a questo episodio qui, quindi Roberto, questa è stata veramente una signora puntata, dove non soltanto abbiamo raccontato momenti emozionanti, ma li abbiamo raccontati con la viva voce, insomma, di uno dei fondamentali protagonisti di un certo momento e di un certo tipo di fare videogiochi. Io penso, insomma, non credo, insomma, l'abbiamo vissuta abbastanza intensamente, con qualche problema a livello tecnico che magari gli ascoltatori neanche si accorgeranno, ma insomma noi lo sappiamo che lo sappiamo, è stata una faticata, quindi esatto, però nel senso alla fine è stato anche divertente giocare su modifiche del microfono, settaggi vari per vivere al meglio. Magari ci sembra quasi essere i pionieri della radio, quindi della radio, sì. Sì, anche sì. Perché per chi l'ascolta magari può sembrare tutto in tempo reale, invece in realtà praticamente c'è un continuo spazio temporale in cui vari pezzi si inseriscono. E infatti questo è il finale, la prima cosa che stiamo registrando in questo momento e poi torneremo indietro. Ma in realtà non è quello, perché forse è che il finale, una parte del finale è stata la prima cosa registrata, poi alcuni pezzi qua e là, poi insomma Dottor Who a noi ci fa un baffo. Esatto. Vabbè Roberto, io direi a questo punto un bel saluto. Abbiamo insomma intrattenuto abbastanza i nostri amici. Ricordiamo www.archeologiavideoludica.net è il nostro sito di riferimento, www.allgamesitalia.net è chiaramente il sito coproduttore di questa trasmissione, la posta elettronica archeologiavideoludica@gmail.com, poi insomma ci cercate su Twitter, Facebook e Google Plus cercando insomma Archeologia Videoludica, insomma non dovreste avere grossi problemi. Speriamo. Per il resto vi rimando ovviamente anche al forum di Orgames Italia, dove non solo sarà possibile commentare i nostri episodi così come sul sito di Archeologia Videoludica, ma insomma iscrivetevi perché è un forum veramente ludico, dove si fanno anche bellissime discussioni ed è anche possibile trovare persone veramente esperte che riescono a trovarvi vecchi giochi che voi avete dimenticato, ma ce l'avete un po' qui sulla punta della lingua. Roberto, salutiamo, baci, frase finale, giustamente, ok, le tradizioni non vanno interrotte. Ah, ce l'hai tu? Certo che ce l'ho io. No, mi fai paura. Fatti non fummo per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Ah, hai capito. Ciao. Ciao. Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia.